Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. È il sabato e qui è Möbius. Ciao Chiara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Cosa raccontiamo? Allora, stiamo per andare a cena, che è anche vero, tra l'altro, ma è una cena particolare, l'incredibile cena dei fisici quantistici. E torneremo nel 1927. Poi andiamo alla Maker Faire di Roma, che si è appena conclusa, un grande disordine necessario. E poi vi portiamo a visitare una mostra, Homo Sapiens, davvero divertente. Partiamo! Via! La pendule fait tic-tac, tic-tic, les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic, glou-glou-glou font tous les dindons, et la jolie cloche ding-dang-dong, mais boum! Gli invitati alla cena in tutto sono 20, con 5 donne, 2 capotavola e 2 sovrani, re Alberto I e la regina Elisabetta del Belgio, Elisabeth Gabriel Valérie Marie Herzogin in Bayer, nipote della più famosa principessa Sissi. Alla cena arrivano tutti puntuali e sono tutti di buon umore, rilassati, ma è solo un'apparenza, le tensioni sanno mascherarle bene. La cosa incredibile è che parlavano tutti nella propria lingua e senza nessun bisogno di traduttori. Tutti si capivano alla perfezione. Anche Le Figaro parlava della cena. La tavola era preparata con lusso e gran gusto. Il lusso si manifestava nella biancheria, nel vasellame, nelle posate. Il buon gusto negli ornamenti e nel modo di disporli. Il vasellame era finissimo, di gran pregio. I servizi di porcellana superavano in valore quelli d'argento. Le posate erano d'argento e portavano le iniziali del padrone di casa. Venivano cambiate ad ogni portata e ogni 2 ospiti c'era un cameriere dedicato. Questa è la voce di Gabriella Grayson, che è venuta a trovarci qui in studio questa sera. Benvenuta Gabriella. Grazie. Ciao, Federico, Gabriella. Chiara, è un piacere essere qui con voi. Ti diamo del tu perché sei una collega, sei giornalista di scienza, ma sei anche fisica di formazione, perché ovviamente adesso ci racconterai quante cose ci hai spiegato nel tuo libro e nel tuo spettacolo teatrale. Poi sei appunto attrice, scrittrice. Partiamo dal romanzo o partiamo dal reading? Il reading che ci hai appena proposto era tratto dallo spettacolo teatrale. Sì, era l'ultima parte dello spettacolo teatrale, si racconta in particolare della cena di questi fisici del 1927. 29 ritratti, ottobre. Esatto, era il 29 ottobre del 1927. Io sono stata ossessionata da una fotografia, una splendida foto in bianco e nero, 29 uomini in posa, 17 erano, sarebbero diventati dei premi Nobel. In quella foto sono riconoscibili Einstein, la cui immagine è più famosa di qualsiasi altra icona pop, da Che Guevara Madonna, è riconoscibile Marie Curie, è riconoscibile Schrödinger, Heisenberg, Dirac, Pauli, e la cosa incredibile è che erano tutti nello stesso posto. È stato il più grande ritrovo di cervelli che la storia ricordi. Alle 18 è stata scattata la foto, alle 19.30 a Bruxelles aveva un appuntamento per andare a cena con i sovrani del Belgio, e da qui che è nato il mio libro, L'incredibile cena dei fisici quantistici. Perché su quella cena ci sono dati, ci sono elementi che possono ricostruire. Esatto, io sono andata a Bruxelles ossessionata da questa foto e ho trovato, cercando negli archivi, traducendo le lettere che si scrivevano tra di loro, ho trovato tantissimo materiale al punto da riuscire a creare un romanzo, perché ho trovato il menù della serata e quindi 7 capitoli diviso per le 7 portate e poi la disposizione degli uomini a tavola, dei fisici a tavola. E quando mi hanno dato questo schizzo in mano mi ha detto: Lorenz l'ha disegnato, Lorenz, il grande orchestratore di questi ritrovi di fisici a Bruxelles. E allora mi è venuta la bava e ho guardato attentamente, ho detto: questo è un romanzo, e poi ho raccolto così tanto materiale che è diventato uno spettacolo teatrale. Allora diamo le coordinate. Intanto, il romanzo si chiama L'incredibile cena dei fisici quantistici ed è edito da Salani. Da qui poi è nato ovviamente lo spettacolo che è in scena in questo momento a Milano, ma che farà un po' il giro d'Italia dal 2017. Sì, esatto. Allora, la regia è di Emilio Russo, la produzione è Teatro Menotti di Milano, e sono proprio al Teatro Menotti dal 4 è già iniziato, quindi è fino al 10 novembre. Fino al 10 novembre, esatto. Abbiamo tempo. Si chiama 1927 monologo quantistico. turistico e le richieste sono così tante, infatti è incredibile, ho fatto due anteprime a Tortona e a Roma, la Sala Umberto, 700 persone sono venute a vedere me che parlo, esatto, di Einstein, di Marie Curie, non Shakespeare o Pirandello come siamo abituati ad andare. Vabbè, però senti, no, è pieno di aneddoti questa cena qui risente di quello che era il dibattito e anche le polemiche anche dure tra di loro. Beh, certo, perché infatti io tiro fuori il loro lato umano e li descrivo proprio caratterialmente, ad ognuno do una caratteristica personale, fisica, i loro tic, le loro manie, e ciascuno la pensava nella sua maniera, sia per il periodo storico che stavano vivendo, sia per le vicende che ci circondano. Dal 1927 l'Italia è entrata nel sesto anno dell'era fascista, Einstein non sopportava l'idea di un dittatore, quindi detestava il regime di Hitler, figuriamoci quello di Mussolini, e prendevano posizioni questi fisici. Invece c'era chi invece tedesco si era adattato alle leggi, alle regole che giravano nella perché Germania, stava avvenendo, esatto, sul il nazismo. Nel 1933 sale al potere Hitler, prende il potere definitivamente. Io racconto nel libro e anche nello spettacolo, con dei flashback, dei fast forward, racconto anche quello che verrà e quello che ci sarà. La cosa importante è che questi fisici tutti insieme hanno creato la fisica quantistica, hanno creato la fisica che è nella vita di tutti i giorni, quando usiamo i telefonini, guardiamo la televisione, CD, DVD. Credo durante la cena comunque dibattevano di questo, sì, perché poi era a seguito di un simposio, di un congresso, sì, che era, esatto, stato. Ma c'era una grande importante polemica fra Einstein, sì, e Bohr feroce, tant'è vero che non si avevano disposti diversamente, grande, a tavola. È vero, bravo Federico. Sì, infatti è stato esattamente così. Guardando la disposizione degli uomini a tavola, Einstein aveva tre persone in mezzo prima di arrivare a Niels Bohr. La tavolata era di 10 metri, quindi come i bambini li hanno separati per non farli litigare. Ma sappiamo se avevano deciso i posti prima o se ognuno si era seduto? No, Lorenz, ecco, aveva messo i segnaposti perché ha detto no, questi non possono quei due litigare. Ci rompono le taste e litigano. Esatto. E tra l'altro aveva in mezzo anche la regina del Belgio che faceva la maliziosa con Einstein tutta la cena, sì. E lui si beava in tutte queste attenzioni. E di fronte Einstein aveva Marie Curie. Lui aveva una stima spropositata per Marie Curie, era la grande scienziata per lui, quindi per lui parlare di fisica con lei era l'assoluto. E oltre ai nobili era l'unica donna, diciamo, rappresentante del allora c'erano cinque genere donne femminile. C'erano cinque donne perché c'era anche la moglie di Lorenz, la moglie di Lamuer, e poi c'era Solvay, la zia di Ernest Solvay, quindi tra i fondatori di questi ritrovi di fisici che vanno avanti dal 1911 in avanti ogni tre anni. Questo era il quinto ritrovo di fisici a Bruxelles nel 1927. Poi un'altra cosa interessante è che era Marie Curie è stata separata, messa lontana, ecco un po' di gossip, un po' di gossip era che è stata messa lontana da Paul Langevin. Paul Langevin è l'uomo con cui nel 1910 ha avuto una storia piccante che è uscita sulle prime pagine dei giornali, perché nel XX secolo, appena pubblicato, mi sembra un libro sulle lettere che si spedivano, adesso non ricordo bene il titolo. Storia finita, però storia finita, perché poi Paul Langevin ha dovuto combattere cinque duelli per salvare l'onore. Ma allora Pierre Curie era morto da cinque anni, lui ha dovuto lasciare la moglie, e i fisici nel XX secolo erano delle rock star, ogni cosa che facevano uscivano sulle prime pagine dei giornali, e quindi figuriamoci la stampa intransigente come aveva amplificato questo scandalo. Gli avevano comunicato che doveva andare a ritirare il secondo premio Nobel e gli avevano detto da Stoccolma non venga a ritirarlo perché non vogliamo che lo scandalo venga fin da noi. Einstein però gli prende posizione, gli spedisce una lettera e dice: questi che fanno questi gossip sono dei rettili, lasci a loro queste parole, invece lei vada tranquilla e fiera di tutto quello che ha fatto. Giustamente. E lei è andata a ritirarlo. Vorrei vedere. No, ecco, davvero divertente. E poi la cosa bella del libro, insomma, è che riesce a vivere, oltre ovviamente a raccontare quello che è la materia complessa che ci sta sotto, tutti questi aneddoti ti fanno un po' partecipare a questa cena, ti portano indietro un po' nel tempo. Quindi ricordiamo un po' le coordinate. Allora, l'incredibile cena dei fisici quantistici, il romanzo è Salani, e poi possiamo venirti a vedere a teatro da adesso fino al 10 di novembre a Milano al Teatro Menotti, e poi sul tuo sito, se ce lo ricordi, possiamo vedere le date del 2017. Sì, Grayson Anatomy, www.graysonanatomy.com. Grazie mille Gabriella di essere stata con noi. Grazie, è stato un piacere stare con voi. A presto. Buona cena. Sulle strade cosa succede? Ce lo dicono adesso. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Questa settimana io e Chiara vi parliamo separati. Io sono stato alla Maker Fair di Roma, questa grandissima kermesse, c'erano un sacco di cose, le più diverse, un grande disordine dedicato all'innovazione, ma un disordine necessario. Se andate al nostro blog vi manderemo anche un documentarietto su questo disordine necessario. Ci si perde dentro questo disordine, ma perché è necessario? Ho fatto una chiacchierata con Davide Gomba di Officine Innesto, che è la nuova denominazione dell'Officine Arduino a Torino, e poi con Alessandro Ranellucci, che è uno dei tre curatori della Maker Fair. E ho incominciato da Ranellucci dicendogli: ma insomma, questo disordine che cosa vuol dire? Sentiamo. Il grande punto interrogativo che si stampa sulla faccia di chi gira è voluto ed è necessario. Tra i tanti obiettivi c'è stimolare, ispirare le persone a scoprirsi capaci di fare delle cose, condividendole e unendole tra loro anche quando magari non sembrano correlate. Che cosa ci fa un falegname con dell'elettronica, un sarto con della robotica? Qui mostriamo cosa succede quando queste persone si conoscono e si scambiano le conoscenze. Poi mostriamo anche un'altra cosa, che se mettiamo accanto un centro di ricerca di alto livello, un'industria di alto livello, una startup, un laboratorio artigianale e una persona, un maker che nel garage fa i suoi hobby, ma tutti sullo stesso tema, non so, ad esempio il cibo, il giardinaggio, mostriamo che in realtà non è chi sei che ti qualifica come un soggetto che innova, che crea, che risponde a un bisogno, ma è come lo fai. Quindi Davide, qui è un posto dove si cerca di creare un nuovo modo di produrre idee, praticamente. Sì, diciamo che sicuramente uno dei pregi della Maker Fair di Roma, che è una delle più grandi al mondo, adesso non so se la terza, la quarta, la seconda, è quello di essere una grandissima onda che permette al suo interno di ospitare tanti livelli diversi di analisi su temi vari. Secondo me un grande produttore, per esempio di silicio, o un grande player di un determinato mercato, venendo qua capisce esattamente in che direzione sta andando quel mercato lì. La definizione classica di fiera è quella dove ognuno viene ed espone le sue cose. È chiaro che vale anche qui, però qui c'è un fattore forte che si aggiunge, cioè vengo qua e chi partecipa è anche pubblico e anche alla ricerca di contatti di cose completamente diverse da quelle che fa. Quindi è davvero una condizione psicologica, sociale diversa. Bisogna trovare un'altra definizione, fiera è troppo classica. È vero, infatti il nome di Maker Fair, che viene inventato negli Stati Uniti, è Fair con la E, che è un po' un gioco di parole, perché è un po' gli spettacoli settecenteschi in cui si stupiva il prossimo mostrando ciò che si sapeva fare, più che una fiera come la intendiamo noi in italiano. Quello che succede qui, ormai da 4 anni, è che si crea una città. Sono 6.000 i maker in questo momento qui dietro di noi. E succede la cosa, dal mio punto di vista di organizzatore, è che succedono tante cose che noi non abbiamo voluto, deciso, controllato. Succedono spontaneamente, è una città che vive. E per tutte queste persone Maker Fair Roma segna una scadenza annuale per iniziare un progetto e finirlo, e per conoscere tante persone con cui negli anni, e lo dico veramente, posso fare degli esempi, sono nate delle collaborazioni, delle aziende anche, di persone che si sono conosciute qui. Tra l'altro in un mix stranissimo e molto interessante di passato e futuro, perché qui si sta recuperando, dovete venire prima o poi a una Maker Fair, si sta recuperando anche una tradizione artigianale impressionante. Ma c'è un mecherismo italiano, una via italiana al mecherismo? Te lo chiedo a tutte e due. Ma sì, tornando al discorso di prima, questo mi serve per raccontare la via italiana al mecherismo. All'interno della Maker Fair c'è un rapporto tra le persone che partecipano alla Maker Fair sopra tanti livelli, su tanti livelli diversi. Stamattina ho partecipato a un panel, a un gruppo dove si dibatteva tra varie realtà di maker italiani come proporsi per i progetti europei, per le collaborazioni che vedono il mondo dei maker che spicca il volo verso altri ambiti di finanziamento che li vedono protagonisti sul mercato del lavoro e anche sulla ricerca di fondi europei per finanziare le proprie sperimentazioni, la propria ricerca. quasi un modo per cercare di collaborare anche da una parte col mondo accademico, che è sempre stato non molto incentivato, secondo me, a confrontarsi con la gente. Dall'altra parte, col mondo imprenditoriale, che tradizionalmente, e io sono in questo mondo da 8 anni ormai, ha un po' snobbato questo mondo, perché non vedeva grandi numeri in questo mondo, ma che in queste fiere è presente, perché la fiera è molto grande, e quindi viene, guarda e si confronta. Ma la Via Italiana al Movimento Maker, ci interroghiamo anche noi, ma effettivamente c'è, e non è una forzatura, perché se l'Italia, anche numericamente, è il paese europeo con maggior numero di Fab Lab, qualcosa vuol dire, insomma, no? Una controtendenza sul nostro primato, qualcosa è significativa. Per cui io devo dire, schematizzando in modo molto brutale, se vai in Cina e chiedi ai maker cinesi perché hai fatto questo progetto che hai sul tavolo, ti rispondono tutti perché voglio diventare ricco. Schematizzo ovviamente, però mi confermi Davide che è un substrato culturale solido, limpido. Se vai negli Stati Uniti e chiedi a un maker perché hai fatto questa cosa che a me sembra totalmente inutile, ti rispondono certo che è inutile, ma volevo divertirmi, condividere, potevo farlo, mi andava, volevo mostrarlo. In Europa c'è un'altra cosa. In Europa vedo una commistione di una cultura, da un lato della piccola imprenditoria, da un lato veramente dell'artigianato che possiamo ancora recuperare, da un lato con una cultura universitaria e quindi la cultura del progetto. In molti politecnici, in molte scuole nostre c'è una cultura del progetto di design. Questo insieme fa sì che qui ci siano soluzioni applicate che però non sono necessariamente subito un prodotto per il mercato, poi ci arriveranno potenzialmente, ma fanno tutto un percorso molto interessante di conoscenza e condivisione prima di arrivare a quello stadio. Mi trovo al MUDEC, il Museo delle Culture di Milano, dove qualche settimana fa è stata inaugurata la mostra Homo Sapiens, le nuove storie dell'evoluzione umana. Qui con me c'è il coordinatore scientifico della mostra, Stefano Papi. Ciao Stefano. Ciao Chiara, benvenuti. Allora, vorrei che riuscissi in qualche modo, lo so che è difficile farlo per radio senza avere le immagini, ovviamente sul nostro blog poi troverete un video e anche delle immagini che voi ci avete concesso per poter appunto incuriosire ulteriormente gli ascoltatori e venire a visitare la mostra, però raccontaci intanto come nasce Homo Sapiens, è un affascinante viaggio alla scoperta della nostra specie. Sì, il termine è perfetto, è un viaggio nel tempo e un viaggio nello spazio contemporaneamente. Questa mostra, che è curata da Telmo Pievani, filosofo della biologia all'Università di Padova, e da Luigi Luca Cavalli Sforza, emerito genetista di Stanford, vuole proprio raccontare come la nostra origine sia lontana nel tempo. Le prime forme umane compaiono in Africa intorno a 3 milioni e mezzo di anni fa, più o meno, e soprattutto sia una storia che si sposta nello spazio. Durante tutta la mostra racconteremo come la nostra specie, quelle che ci hanno preceduto e quelle con cui abbiamo convissuto, si sono spostate sul pianeta. Viaggiare è sempre stato un po' dentro di noi. Ed è proprio da qui che parte in qualche modo anche l'esposizione, così l'avete pensata, quindi raccontando gli spostamenti dei nostri antenati, con alcuni pezzi davvero particolari, perché in realtà siete riusciti a mettere in mostra, ed ecco qui il sottotitolo della mostra, che appunto è Le nuove storie dell'evoluzione umana, siete riusciti a mettere in mostra alcuni pezzi che raccontano in effetti le ultime scoperte scientifiche in questo campo. Poche discipline come la paleoantropologia negli ultimi anni sta avendo delle rivoluzioni enormi, che per noi è anche un po' una difficoltà riuscire a seguire tutte le ultime scoperte che si stanno facendo. Proprio in questi ultimi anni tante nuove scoperte vengono proprio dall'Africa. L'Africa è un po' il cuore di tutta questa storia. In mostra, per esempio, i nostri visitatori potranno vedere per la prima volta ricostruito camminante il famoso Homo naledi, questa nuova specie presentata ormai un anno fa, nel settembre del 2015, in una caverna vicino a Johannesburg hanno trovato un incredibile numero di ossa, oltre 1500 ossa, che è un numero incredibile, appartenenti a una specie nuova che non era mai stata scoperta. Ancora non si sa molto di questa specie, per esempio non si sa quanti anni abbia, non è ancora stata datata. Però è affascinante scoprire come questi nuovi fossili vadano a completare un quadro sempre più complesso. Forse tutti gli ascoltatori avranno in mente l'idea dell'evoluzione umana partendo dalla scimmia fino all'uomo. Diciamo la classica immagine, quella lineare, ecco, in realtà non è così lineare. Per niente, non è per nulla, anzi lo stesso Darwin, quando ne parlò, si immaginò una specie di cespuglio o di corallo evolutivo, per dare l'idea di come sia molto più complessa la storia, ma complessa significa anche affascinante. Ad esempio, intorno a 50.000 anni fa, per fare solo un esempio, su questo pianeta vivevano contemporaneamente 5 specie umane diverse, e questa è una cosa che normalmente i nostri visitatori affascina. E girando per la mostra li incontreremo, quindi potrete mettervi faccia a faccia con un Neanderthal o con un uomo di Flores, oppure potrete ammirare per la prima volta in Italia il fossile originale del primo Homo sapiens scoperto fuori dall'Africa. Ecco, questo è interessante perché tu dici potete vedere delle ricostruzioni senz'altro strepitose, fatte molto bene, ma anche dei pezzi originali che appunto sarebbe difficile altrimenti vedere. È una mostra composita, ci sono tante cose, ci sono calchi, ci sono ricostruzioni, ci sono fossili originali, ci sono exhibit interattivi, video, quindi tanti linguaggi diversi. E appunto immaginatevi di guardare negli occhi una donna che è vissuta 95.000 anni fa in Israele, il suo cranio originale è esposto in mostra. Poi continuando, ovviamente non possiamo percorrere tutte le sale che compongono l'esposizione, però da lì si snoda questo viaggio e vengono rappresentate ovviamente la specie Homo sapiens, che si differenzia dal punto di vista geografico, e vediamo alcuni oggetti, ad esempio etnologici, antropologici, che ci fanno capire in che modo ci siamo incrociati, pur essendo una sola specie. Sì, questo è importante. Uno dei messaggi che porta la mostra è che la nostra specie è una, e che la biologia ha dimostrato, la genetica in particolare, che non esistono razze nella nostra specie, siamo un'unica razza, però siamo tutti diversi se ci guardiamo, non solo fisicamente ma soprattutto culturalmente siamo tutti diversi, abbiamo una ricchezza culturale incredibile, pensate a quanti popoli, quante popolazioni ci siano sul pianeta, con le loro lingue, con le loro culture, con i loro usi, le loro religioni. Quindi se è vero che abbiamo una radice comune, arriviamo tutti da un'unica popolazione africana di 200.000 anni fa, questa radice ha sviluppato una fronda di rami fantastica, diversissima, e che oggi rappresenta la ricchezza della nostra specie. Quindi quando le specie si incontrano, quando i popoli migrano, ad esempio, ne parliamo in questi giorni più che mai, è qualcosa che abbiamo sempre fatto nella storia, non è una novità. Il migrare non provoca conflitti sempre e solo, molto più spesso ha provocato arricchimenti. Quindi quando i popoli si sono incontrati si sono fusi e le loro culture si sono influenzate. Facci qualche esempio magari di oggetti che sono esposti in mostra, molto particolari, perché insomma la mostra l'abbiamo visitata insieme, e in effetti ci sono dei pezzi davvero unici e particolari che rappresentano proprio quello che ci hai appena detto. Sicuramente uno dei prestatori più importanti della mostra è proprio la sede che ci ospita, il Museo delle Culture, che ha una collezione etnografica fantastica. Mi vengono in mente ad esempio delle bellissime canoe Asmat, che sono un popolo della Nuova Guinea, che in legno sono assolutamente fantastiche, oppure addirittura potrete vedere anche degli indumenti cerimoniali Inuit, che sono un popolo che vive... No, aspetta, elementi cerimoniali, diciamolo per chi non può vederlo e chi verrà a visitare il museo. Abbiamo una culotte e un perizoma fatto, se non erro, di pelle di foca. Davvero originale. Indumenti cerimoniali Inuit, appunto, ma a parte questo, poi per esempio potrete ammirare una vertebra di balena intagliata a foggia di cacciatore Inuit, che ha in mano una specie di uccello o qualcosa del genere, o addirittura un elmo che viene dal Giappone, ma che se lo vedete non ha assolutamente una foggia classica giapponese, sembra il classico elmo dei conquistadores spagnoli e portoghesi, e racconta proprio una storia di incontri tra popoli. Quando i giapponesi incontrarono gli occidentali, si innamorarono, diciamo così, della foggia dei loro copricapi e la imitarono, per poi metterci sopra la loro arte, quindi draghi, serpenti, tigri, le classiche iconografie artistiche estremorientali. Ecco, questo è un po' il messaggio della mostra. L'oggi guardato con gli occhi del passato. L'oggi è il prodotto di questa lunghissima storia di spostamenti, di incroci, di incontri, di guerre. Abbiamo scoperto ad esempio che dentro il nostro corpo c'è una percentuale di DNA del Neanderthal. Quindi per esempio con il Neanderthal non abbiamo solo fatto la guerra, probabilmente abbiamo anche fatto l'amore. E questa è un'altra bella storia che raccontiamo. Insomma, vogliamo dare un po' un filtro a questa nuova visione del mondo e dare un'idea che quello che succede oggi è il prodotto di ciò che siamo da tantissimo tempo. Pochissimi secondi in conclusione per ricordare che ci sono un sacco di approfondimenti questa settimana sul nostro blog, lo trovate sempre su www.radio24.it nella sezione blog, tutto restylizzato il sito. Buona settimana a tutti e a tutte, ciao!